Ritroviamo Saverio La Ruina per un nuovo spettacolo di scena verticale Masculu e Fiammina, che sarà in scena da oggi martedì 31 gennaio fino a domenica 5 febbraio al Teatro India qui a Roma. Saverio, ben ritrovato al Radioteatro su Onda Rossa. Ben ritrovati voi. Di Onda Rossa, allora, scena verticale, vi seguiamo sempre. Raccontaci un po' di questo nuovo lavoro. Allora, è la storia di un gay di una certa età, no? Che vive al sud, anche se ha avuto appunto anche un momento della sua vita, diciamo, al nord, in una situazione, e diciamo, lui ogni giorno. Si è creata la sua postazione in cimitero, va ogni pomeriggio 2 ore a fare visita alla mamma morta e in questa occasione diciamo racconta sempre poi tutti i giorni un po' quello che fa nella giornata e tutti i piccoli eventi che però comunque in qualche modo danno una pennellata su certe vite in qualche modo al sud, ma aspettando un momento praticamente quello che di riuscire finalmente a farla partecipe di quella parte di sé fondante della sua vita, cioè la sua identità di omosessuale, che non ha avuto mai il coraggio di affrontare con lei, essendo la persona più importante della sua vita, ne ricava un grandissimo rimpianto. Tra l'altro la mamma lui sa che è intuito e durante lo spettacolo trova anche il momento appunto per ricordare questo evento dove si capisce chiaramente che lei appunto aveva intuito tutto e diciamo in questa giornata emblematica si crea un gancio perché lui possa in qualche modo fare questo coming out e raccontare, farla partecipe della sua identità e anche quindi di questa parte della sua vita fondamentale che lei non conosceva assolutamente, a parte questa intuizione, insomma. Mm-hmm. Questo è un po', quindi va ogni giorno lì e le fa partecipe di tutta la vita, alla sua formazione, ai primi segnali, le prime fitte al cuore, gli amori e come questi amori in qualche modo si complicano anche perché a causa della sua identità all'interno di una società che insomma adesso certo ha fatto molti passi avanti, ma a volte forse più istituzionalmente, anche se più in ritardo che diciamo nella testa della gente. Saverio, qual è stata la genesi di questo nuovo lavoro? Allora, la genesi nasce da una proposta di Rodolfo Di Gianmarco, il critico di Repubblica, sì, che appunto organizza ogni anno a Roma una rassegna a tematica omosessuale che è Garofano Verde. E lì in quell'occasione sono riuscito appunto a scriverne una metà soltanto del testo che poi ho fatto in lettura con leggio. Dal tipo di anche di reazione, di impatto che c'è stato e del fatto che mi sono veramente innamorato poi di questo personaggio e della sua vita, cioè in parte fittizia, in parte chiaramente anche un po' ispirata da varie vicende, ho avuto proprio voglia di chiuderlo, di finirlo e in qualche modo mi sono reso conto che quando lui me l'ha chiesto in effetti sentivo anche dentro di me la voglia di toccare questo argomento, che tra l'altro in questi termini penso sia stato poco o per niente trattato, perché appunto non è come dire una storia di rivendicazione forte o di melodramma, è fatta di piccole cose, provando a farlo anche poeticamente, che possono restituire magari forse chissà anche con maggiore forza determinati aspetti della vita di un gay, che poi parla di amore, insomma, lo spettacolo, c'è un sentimento assolutamente naturale che però appunto c'è questa responsabilità proprio di istituzioni, di pregiudizi assolutamente assurdi e di una posizione della Chiesa che in qualche modo ha dettato molte sofferenze. Senti, rispetto alla lettura che è stato il primo capitolo insomma di questa nuova avventura, come ci dicevi, a Garofano Verde, e come è stata la strutturazione della messa in scena, su cosa hai puntato? Ma lì, diciamo, siccome appunto non volevo che fosse una situazione realistica, però volevo allo stesso tempo che si restituisse questa dimensione, diciamo, di questo cimitero, E tra l'altro lì c'è il primo spiazzamento, perché appunto al sud uno si aspetta sole, cioè ce n'è certo in abbondanza, però addirittura queste giornate sono, e questa giornata in particolare, è ambientata in un momento in cui il cimitero è innevato, quindi che poi in qualche modo riflette forse anche qualcosa del, diciamo, del lavoro, di una lettura che appunto guardandolo può suggerire. E c'è appunto una lapide un po' scomposta, insomma, pochi elementi, e diciamo, e in qualche modo, mentre gli altri lavori erano, diciamo, condizionata la Borti italianesi, erano frontali al pubblico, cioè come il pubblico fosse l'interlocutore di volta in volta, e poteva essere appunto una confessione a una persona X vicina. In questo caso chiaramente non è frontale, anche se è rivolto certo anche al pubblico che è interlocutore, però diciamo l'interlocutore principe è appunto questa foto della mamma che appunto è in scena con lui. Senti, per chi non conoscesse la compagnia, ci dici qualcosa di riferimento? Ma allora, Compagnia Scena Verticale, la sede a Castroviller in Calabria è stata una grande scommessa, perché è comunque un luogo da dove in genere si, per fare teatro, potrei usare un termine eccessivo, di così si scappa via, no? Perché non ci sono possibilità. Poi Castroviller in particolare è un piccolo centro di 25.000 abitanti, ma come dire, avendo poi cominciato lì a fare casualmente proprio il primo lavoro e portandolo poi fuori in città, devo dire fu accolto molto bene. Ricordo anche all'epoca era la nostra prima uscita qui a Roma, una bellissima recensione di Nico Garrone, allora di Repubblica, e lì ci siamo resi conto che in effetti poi bisogna essere pronti quando si arriva nelle capitali culturali col lavoro, al di là della necessità di starci, e forse in qualche modo questi luoghi ti nutrono anche con le loro contraddizioni. E da lì abbiamo anche, diciamo, ci siamo inventati un festival proprio per, insomma, per avere una situazione più vivace, che potesse anche dare altri lasciti e creare anche un gusto sul contemporaneo, e ci siamo inventati un festival Primavera dei Teatri, che è di non grandi risorse, ma devo dire anche molto apprezzato, per fortuna il lavoro è ripagato e c'è una, diciamo, sempre una presenza importante di addetti ai lavori, di stampa, e quindi anche quello è stato un altro tassello, nel senso che poi delle cose, no, se ci si lavora si possono fare anche, c'è il famoso fiore nel deserto, può effettivamente venire fuori. Senti Saverio, allora ricordiamo l'appuntamento al Teatro India con Masculu e Fiammina da oggi, martedì 31 gennaio, fino a domenica 5 febbraio. Se non ci risentiamo prima, ci sentiremo sicuramente per il festival. Grazie mille, un saluto a chi ci ascolta. Un abbraccio, in bocca al lupo, ciao. Un abbraccio a te Federico, in bocca al lupo. Ciao.